sei diverso, non ti allontanare, siediti vicino, di vicino a me. Sei così diverso, no, non te ne andare, io ho bisogno di te. Ai confini del mio mondo, l'altro mondo, ci sei tu, la tua anima, i tuoi occhi dicono cose che non so. Il mio mondo, il tuo mondo, solo un mondo c'è. Tu che ti sei perso, non ti disperare, prendi la mia mano, ti aiuterò. Tu che tieni in buio, non ti rassegnare, ho la mia luce per te. Ai confini del mio mondo, l'altro mondo, ci sei tu, la tua pelle, il tuo sorriso, hanno cose che non ho. Il mio mondo, il tuo mondo, solo un mondo c'è. Tu che sei diverso, non andare via, io ho bisogno di te.